Sogno, se sembra finito, non è mai finito realmente. Corri e cammina ancora tra la gente e dimentica che conto a rovescia di candele di ragione, mentre il tempo striscia tra le persone. Scuri invisibili portano paure generando un bagliore. Conto a rovescia di candele di ragione, mentre per terra striscia tra le persone. Scuri invisibili portano paure generando un bagliore. Il respiro nel petto sembra fermarsi dalla paura d'affetto, un verso di corse che potrebbero essere spente d'un tratto. Potrebbero essere spente d'un tratto. Conto a rovescia di candele di ragione, mentre in terra striscia tra le persone. Scuri invisibili portano paure generando un bagliore. Generando un bagliore. Quindi libera la mente dalla paura, impara a soffrire e non sentire l'ultima ora. Spade pendenti non ti faranno mai morire, stringi i denti, il nuovo dolore e seguendo un bagliore. La morte un incanto è solo la strada per un nuovo risveglio, ponte manto per un vero migliore evento. Il sogno si sembra finito, non è mai finito realmente. Corri e cammina ancora tra la gente e dimentica che conto a rovescia di candele di ragione, mentre la terra striscia tra le persone. Scuri invisibili portano paure generando un bagliore. Generando un bagliore. Nel petto sembra fermarsi dalla paura d'effetto, in verso di corse che potrebbero essere spente d'un tratto. Quindi libera la mente dalla paura, impara a soffrire e non sentire l'ultima ora. Spade pendenti non ti faranno mai morire, stringi tra i denti il nuovo dolore seguendo un bagliore. Il tuo sogno se sembra finito non è mai finito realmente. Corri e cammina ancora tra la gente e dimentica che, e dimentica che. Il tuo sogno se sembra finito non è finito realmente. Corri e cammina ancora tra la gente e dimentica che. Conto a rovescia di candele di ragione, mentre per terra striscia tra le persone. Scuri invisibili portano paura generando un bagliore. Respiro nel petto sembra fermarsi dalla paura d'affetto, in verso di corse che potrebbero essere spente d'un tratto. Quindi libera la mente dalla paura, impara a soffrire e non sentire l'ultima ora. Spade pendenti non ti daranno mai, non ti faranno mai morire, stringi tra i denti il nuovo dolore seguendo un bagliore. Sogno se sembra finito non è mai finito realmente. Corri e cammina ancora tra la gente e dimentica che tuo sogno se sembra finito non è mai finito realmente. Corri e cammina ancora tra la gente e dimentica che esiste il conto a rovescia di candele di ragione, mentre il tempo striscia tra le persone. Scuri invisibili portano paure generando un bagliore. Forse l'ultimo bagliore. Il tuo sogno se sembra finito non è mai finito realmente. Corri e cammina ancora tra la gente.